nuovamente in mostra la nostra sigla che dà il via a questa esposizione per Art City Bologna. Quindi abbiamo un 2024, un weekend imminente ricchissimo. Come ben sapete, Radio Città Fujiko segue da vicino il Breakfast Club. Come la scorsa stagione, ha identificato esposizioni che ritornano nelle sedi che vado a citare. Iniziamo con Palazzo De Toschi, per essere più preciso, con Abbandona gli occhi. Patrick Tuttofuoco, che ho avuto l'opportunità di conoscere in anticipazione in conferenza stampa, la sua disponibilità, l'artista, per presentare un lavoro che è in diretta comunicazione, seppur in maniera armonica, nonostante le difficoltà con la sede espositiva. Ce ne parlerà Davide Ferri nella seconda parte di conversazione, che è il curatore per l'esposizione Abbandona gli occhi. È un'esposizione, come ho detto, che porta un vantaggio nel movimento, nella motilità. Questa è una delle sensazioni che mi ha comunicato all'impatto visivo, ma per quanto riguarda l'impatto emotivo, è come dare a un'arte pop qualcosa che mette insieme un aspetto di riflessione e allo stesso modo conoscenza, volontà nei materiali che portano da Patrick Tuttofuoco, una comunicazione in movimento. I materiali sono diversi, l'approccio con la sede espositiva è molto importante, l'ispirazione, come ho detto, è distanza e nello stesso tempo vicinanza, ma vi è anche altro, lo sentiremo dalla voce di Patrick ai microfoni di Radio Città Fujiko. Come abbandoniamo i nostri occhi grazie alla tua ispirazione? Ma l'idea di abbandonare gli occhi è quasi come se fosse un suggerimento, ma non si riferisce a negare l'aspetto estetico delle opere, che pure è importantissimo, no? D'altronde è arte visiva e il linguaggio di questa arte visiva è quello che si rinnova costantemente, però non è l'unico modo per entrare in contatto con un organismo complesso come una mostra e degli organismi appunto complessi come le opere, che hanno un ruolo differente, cioè devono chiaramente trovare un riscontro in un linguaggio estetico, evolverlo, trasformarlo, ma devono essere anche il grado di raccontare qualche cosa di più, soprattutto in un momento come questo all'interno della nostra società gli elementi come il mercato, l'industria e anche la tecnologia, che pure sono tutti strumenti ottimi, tendono un pochino a chiudere gli spazi di un rapporto un pochino più trascendente, mettiamola così, con l'esperienza della vita. L'arte ha sempre avuto questa possibilità. La mostra oltretutto è il risultato di una collaborazione importante della Banca di Bologna, che l'ha prodotta, l'ha sostenuta, e con l'aiuto del curatore Davide Ferri. Quindi, come sempre, sono degli organismi, anche le mostre, complessi, che hanno all'interno tante realtà. Credo che nel caso di questa mostra ho la presunzione di dire che siamo stati bravi nel trovare un equilibrio tra le varie parti. Confermo, sia per essere bravi e allo stesso tempo anche ispirati, ma andrei oltre perché il contenuto è condivisibile. Vedo, osservo almeno, che fai tutto ciò attraverso un materiale che però ha un'attinenza con tecnica, l'aspetto industriale e quant'altro. Sì, ma infatti è un punto, per me è proprio importante. Allora, mi capita spesso di usare per esempio il neon, che è un materiale che evidentemente ha un eco legato a un linguaggio che era linguaggio da strada, però stiamo parlando di tanti anni, oramai ha quasi un sapore romantico, ma ancora racconta una tecnologia, un rapporto con la materia più dettato da leggi quasi, no, insomma, di resistenza, no? Non è un materiale per forza nobile. In questo caso però si associa a una serie di sculture che sono fatte invece in marmo rosa, e quindi con un materiale che porta con sé la tradizione. Però questo marmo rosa nasce da una, diciamo così, il pezzo finale nasce da una scansione 3D che è stata rielaborata da me e poi tirata fuori da un braccio robotico, no? Per cui in CNC, no? Quindi la tecnologia è un elemento fondamentale, non solo c'è, è fondamentale, ma e non c'è niente di sbagliato, anzi è un brivido, è sempre stato un brivido la tecnologia, perché rappresenta una forma di evoluzione, delle volte anche estrema. È la quantità scelta di questa evoluzione e l'equilibrio di questa evoluzione, che secondo me deve poter cambiare in parte. Quanto questo, i rapporti di forza, esattamente come viene usata questa tecnologia e quanto è importante la coscienza che c'è dietro, cioè dell'individuo, è più che altro quello. Abbiamo parlato di un aspetto cromatico, adesso parliamo anche dei toni di luce, sì, sui quali lavori, ed è molto importante. La luce è fondamentale anche perché, ripeto, è una forma che ha un racconto di per sé, insomma, si racconta nel momento in cui è accesa, producendo, intervenendo molto nell'ambiente. Questo è già un tema fondamentale, no? Ci sono tutte le cose inserite in un ambiente, interagiscono. Nel caso della luce è percepibile dai sensi direttamente, no? In maniera più esplicita questa cosa. Ma soprattutto quello che mi piace della luce c'è la sua condizione viva, cioè cosa vuol dire? È una forma che ha come minimo due condizioni, accesa e spenta, racconta la possibilità, diciamo che è una materia con una complessità e che si racconta con delle frequenze che possono variare. E pensa che il neon o il tubo fluorescente da elettricista, te lo dico, ha bisogno anche di momenti di flash per accendersi. Quindi è una conversazione oltre che un messaggio. Comunque essendo un'energia che è la manifestazione di un'energia che si sta usando, è la manifestazione di una vita sostanzialmente. Io ti ringrazio tantissimo, grazie, un piacere averti conosciuto. Anche grazie. Per me, grazie. Portati da un artista, B. Fleischmann, per la colonna sonora A Number of Small Things, in 45 giri per la More Music, glitch pop, così definito proprio per questi bagliori di luce che arrivano allo stesso modo. Ci soffermiamo sull'aspetto dal cromatismo al luminoso, all'aspetto di interruzione e poi ripresa di luce, quello che un tubo fluorescente dà da elettricista, come appunto mi sono congedato con Patrick tutto fuoco, è qualcosa che ma funzionerà, o è lo starter, o è il reattore che dà dei problemi, oppure avremo finalmente una luminosità adeguata. Poi il calore, ci sono codici ben diversi che contraddistinguono i tubi fluorescenti o tubi al neon, è una cosa diversa, tubo fluorescente o tubo al neon. Comunque adesso non mi voglio addentrare in queste specificità tecniche, è l'emozione che domina nella mostra Abbandona gli occhi, Patrick Tuttofuoco, che ne ha data una estensione oltre all'aspetto di emotività che è fondamentale, il rapporto con la tecnologia, il rapporto pop che nello stesso tempo però ha un motivo di comunicazione per accrescere in maniera trasversale piuttosto che un mainstream, che sono aspetti diversi nella diffusione artistica e nell'ispirazione artistica. L'esposizione è già aperta, è a Palazzo Toschi e sarà fino al 18 febbraio 2024, è nel ventaglio di Art City Bologna 2024, con Davide Ferri, il curatore di questa mostra. Avremo modo anche di conoscere il dialogo inerente alla sede espositiva. E sì, è una delle ragioni per cui Banca di Bologna è e me, che sono il curatore, abbiamo individuato e abbiamo scelto il lavoro di Patrick Coprifuoco perché quest'anno sentivamo l'esigenza di... questo è un luogo che presta il suo spazio soltanto una volta all'anno all'attività espositiva, naturalmente, normalmente è il salone di una banca, quindi ha sedute, palchi, no? Quello che serve naturalmente per svolgere la sua funzione di sala congressi. E gli allestimenti, attraverso gli allestimenti noi tendiamo naturalmente a coprire, a nascondere, a rimodulare completamente lo spazio in modo tale da trasformare per quanto si può questo spazio il più possibile. E invece quest'anno c'era venuta voglia di consegnare, tra virgolette, all'artista lo spazio così com'è, anche con tutte le sue durezze, con tutti i suoi richiami alla sua vita ordinaria, che sono ineliminabili. E quindi la scelta del lavoro di Patrick Tuttofuoco è anche... La scelta del lavoro di Patrick Tuttofuoco è anche sulla base di questo di desiderio. Questa sfida. E devo dire che per la prima volta da quando accompagno, diciamo così, le mostre in questo spazio, io non sento il problema del pavimento, per esempio, non sento il problema delle tante, troppe finestre, perché proprio questi neon, questa partitura di neon, che è un tratto fondamentale di questa mostra, perché come dico sempre, è una mostra di scultura, certo. La scultura è molto importante rispetto ai fili conduttori che abbiamo percorso a Palazzo dei Toschi, ma è una mostra di scultura inserita in una partitura di neon. Ecco, questi neon vivono anche dei riflessi sul pavimento, sulle finestre, e quindi stabiliscono un dialogo completamente diverso, non solo con lo spazio da dentro, ma anche con il fuori, perché da fuori, passando sotto in Piazza Minghetti, lo spettatore comincia a intravedere, no, c'è qualcosa. Un altro come in termini di proprio di esperienza luminosa, qualcosa che sta avvenendo all'interno, ma anche il fuori è costantemente riconfigurato dai riflessi, per esempio, dei neon sulle finestre. Una grande forma di motilità, non solo per quanto riguarda l'aspetto così metafisico, ma anche fisico. Sì, e per me è molto, con Patrick, riguardando questa mostra, dicevamo anche sì, va benissimo, i richiami tra una scultura e l'altra, sono in due sale diverse, quindi evoco sempre l'idea di questo piano sequenza, esatto. No? che porta una in dialogo con l'altra, cioè per me è molto forte questa dimensione del ritratto, no? e che è un altro aspetto intimo rispetto a quel lato pop a cui viene sempre associato il lavoro di Tuttofuoco. C'è anche un lato intimo, c'è un desiderio di un'inclinazione al ritratto, ha sempre fatto parte del lavoro di Tuttofuoco, prima era un ritratto collettivo generazionale, adesso è quasi un ritratto familiare, cioè queste figure che sono modulate sul corpo dell'artista una e sul corpo della moglie, del figlio, certo, dell'artista l'altra, delineano e tracciano attraverso un movimento, ripeto, cinematico, proprio i contorni di un ritratto familiare, come un ritratto familiare che misura prossemiche ma soprattutto anche inevitabili distanze e, mi verrebbe da dire, solitudini. E altra cosa fondamentale, quando guardavamo questa mostra con Patrick, dicevamo, beh, la mostra è nelle opere naturalmente, ma è anche tra le opere c'è il corpo dello spettatore, il corpo dello spettatore si ritrova in mostra attraverso due sculture specchianti che sono da una parte e dall'altra, un neon che sta pure un pochino in alto, ma dove il corpo dello spettatore può riflettersi, quindi lo spettatore ritrova il proprio corpo tra i corpi della mostra, e anche nella sala piccola, quando avvicinandosi a quel disegno, a quel volto a cui senza occhi, a cui è sovrapposto un fiore, nella cornice lo spettatore vede il proprio volto, il proprio corpo. Beginning End, per pronunciarlo in maniera più corretta, Boney M per la More Music, questi singoli in glitch pop, post rock, anche strutture elettroniche. Di elettronica parleremo domani all'interno di Jazz Live. Comunque, a proposito di anticipazioni, e con In Mostra che procede anche dopo la pubblicità per ritornare in una sede espositiva molto particolare alla quale sono affezionatissimo, attaccatissimo e oltre. Comunque ne parleremo tra poco dopo la pubblicità. Intanto mi congedo a voi ricordando che Abbandona gli occhi, Patrick Tutto Fuoco, sarà fino al 18 febbraio a Palazzo De Toschi, ovviamente a Bologna, all'interno di Art City. Pubblicità, a tra poco.